Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Voglio portarvi a Brera perché in queste giornate c'è l'opportunità di vedere un confronto eccezionale. Come sapete, Brera conserva tra i suoi capolavori lo Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio. Ebbene, in questo periodo dalla Francia è giunto un altro Sposalizio della Vergine, opera di Pietro Perugino, che era il maestro di Raffaello. E questi due quadri, confrontati in una sala, sono molto simili. Uno molto grande, quello di Perugino, quello un pochettino più piccolo, quello di Raffaello. La storia e il confronto di questi due quadri è veramente abbastanza rocambolesca. Tutto nasce dall'anello. In realtà lo Sposalizio della Vergine non è altro che l'esaltazione dell'anello, del momento in cui Giuseppe infila l'anello nel dito di Maria. Quell'anello, molto importante, era in realtà una di queste mirabolanti reliquie che la città di Perugia possedeva. Tra l'altro lo possedeva in modo illegittimo, perché un frate francescano l'aveva rubata da un'altra città e l'aveva portata a Perugia. A Perugia, nel Duomo, questo anello della Vergine Maria, delle nozze della Vergine Maria, viene conservato con grande attenzione e si incarica appunto Perugino di realizzare un quadro per l'altare di questa cappella. E Perugino, che aveva già realizzato importanti dipinti, per esempio nella Cappella Sistina, non fa altro che replicare alcune di queste scene e immagina la storia dello Sposalizio davanti a un grande tempio a pianta centrale. Qualche anno dopo, mentre il pittore Perugino sta lavorando a questo quadro da consegnare al Duomo di Perugia, il giovanissimo Raffaello viene incaricato dalla comunità di Città di Castello, per la chiesa francescana di Città di Castello, di fare un quadro analogo. Ecco, il confronto è sorprendente, perché il giovane Raffaello fa un quadro incredibilmente più bello di quello del suo maestro, lo supera in modo grandioso. Perché? Perché muove le figure, le fa danzare. La scena del matrimonio è fatta di figure che si muovono, e soprattutto realizza un tempio a pianta centrale, come fa anche Perugino, che è infinitamente più credibile come edificio di quello del Perugino, che sembra fatto un po' di cartone. Raffaello si dimostra appunto quello che era: un artista versatile. Era anche un grandissimo architetto, e in questo edificio sul fondo lo dimostra molto bene. Comunque il confronto, a onor del vero, fa anche capire che il vecchio Perugino comunque si difendeva sempre bene, pur essendo insidiato da un giovane di Urbino, bravo e destinato a una grande carriera, che lo supererà e quasi lo farà dimenticare.